Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Dario Bonazzelli di I Wonder Pictures per presentare il film Full Time al 100% di Eric Gravel al cinema da giovedì 31 marzo 2022. Ben trovato. Ciao Federico, ben trovato a te, ben trovati a tutti. Ce ne parli? Full Time è un film che segue una linea ben precisa che la nostra distribuzione ha preso negli ultimi anni, ovvero una sinergia totale con la Francia. È un paese della culla del cinema, come sappiamo, e ci riserva sempre grandissime opere. In questo caso Full Time, che abbiamo rinominato in italiano Full Time al 100%, è un film molto, molto delicato e particolare. Si è visto in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia dello scorso anno, era nella sezione Orizzonti e ha vinto ben due premi. Uno alla protagonista, che è la splendida Lorca Lamy, e uno al regista Eric Gravel. È un film che da subito ha fatto impazzire tutti alla Mostra del Cinema e che dopo un po' di tempo arriva nelle sale e ne siamo molto, molto contenti. Full Time è una storia dei nostri giorni. Vede protagonista Julie, interpretata appunto da Lorca Lamy, che vive una vita come tantissimi. È una mamma separata, deve crescere due bambini e deve scapicollarsi per sbarcare il lunario. Quindi il film è la sua vita quotidiana, ma con un ritmo veramente frenetico, quasi ansiogeno, proprio perché la vita di tutti i giorni, soprattutto per le donne oggi, è ricca di insidie e di corse contro il tempo. Ecco, tutto questo è trasposto nel film con una maestria unica, che appunto è valsa un premio Eric Gravel, non solo a Venezia, ma ha vinto premi in tanti posti. Voglio anche ricordare che per Eric Gravel non è un debutto, ma è una seconda opera che porta al cinema. La precedente fu del 2007. Dove lo avete intercettato e come avete deciso poi di portarlo in Italia? L'abbiamo conosciuto nei mercati precedenti, penso al mercato di Cannes, al mercato di Berlino dell'anno precedente, dove abbiamo delle relazioni di continuità molto importanti con i principali player, distributori, produttori francesi. Il film ci ha convinto subito e lo abbiamo preso, ecco, a scatola chiusa, e abbiamo avuto anche già subito le conferme, come vi dicevo. Dopo il nostro acquisto ha vinto questi premi, ma posso anche dirvi che è uscito in Francia proprio due o tre settimane fa, raccogliendo ben 100.000 spettatori in soli 7 giorni. Sono numeri da capogiro per quanto riguarda l'Italia e speriamo che possa proseguire su un percorso di questo tipo. Uscirà in oltre 40 sale, dal Piemonte fino al Sud Italia, in tutte le principali città. Sicuramente ci sarà spazio per tutti, in tutte le sale, in tutte le città, per andarlo a vedere. Ecco, mi piaceva anche sottolineare il fatto che, ecco, la Francia è un po' un paese d'adozione per l'Italia e Lorca Lamy lo sta diventando. Ecco, Lorca Lamy è una stella emergente, molti di voi sicuramente l'hanno già vista, ma in questo caso su una serie televisiva che si chiama 10%, Call My Agent, chiamo il mio agente. Da lì ce ne siamo innamorati e abbiamo acquistato questo suo nuovo film. E non solo, sono di recente annuncio anche altri 3 film che vedono protagonista Lorca Lamy. Non so dirvi alcuna parola di questi film perché conosco solo il titolo, sono ancora in produzione, faranno grandi festival nell'arco di questo 2022. Si chiamano Angry Annie, dove lei interpreta, ecco, una madre di adolescenti in un villaggio di campagna in Francia negli anni 70. Interpreta anche una prostituta indipendente in Un fin du monde di Cécile Ducroc E un altro titolo che capisco già dai rumors dietro le quinte che sia molto molto atteso si chiama L'origine del male, L'origine du mal, sempre francese, di Sébastien Marnier, dove l'orcalamin interpreta un umile operaio di una fabbrica di conserve. Questo è tutto quello che so. Anche io come distributore non vediamo l'ora di scoprire questi film e per scoprire lei invito tutti di andare al cinema. Ci lasci tutti i riferimenti web per vedere le sale? Potete controllarle in primo luogo dalle nostre pagine Facebook e Twitter, nonché Instagram, quindi iwonderpictures.it, e seguiteci da là che è il modo più facile e veloce per controllare anche le sale. Il film Full Time al 100% di Eric Gravella al cinema da giovedì 31 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento a Dario Bonazzelli di I Wonder Pictures che lo distribuisce. A presto! Grazie a te Federico per lo splendido lavoro che porti avanti e per chiamarmi sempre. Grazie a tutti, buone visioni. Con Matteo Fresi, regista del film Il muto di Gallura, al cinema in tutta Italia da giovedì 31 marzo 2022. Ben trovato! Ah, grazie, ciao Federico. Dicevo in tutta Italia perché in Sardegna in realtà è uscito una settimana prima. Abbiamo fatto questo giro di presentazione in Sardegna che è andato molto molto bene. Ringrazio di cuore il pubblico sardo perché ha partecipato davvero con entusiasmo. Cosa ti racconta? Una storia reale. È avvenuta intorno al 1850 nel nord della Sardegna, in questa regione della Sardegna che si chiama Gallura. Una storia vera, poi raccontata in un romanzo a pochi anni di distanza dai fatti realmente accaduti, da Enrico Costa, uno scrittore sassarese, che aveva fatto un lavoro, secondo me, splendido, anche in anticipo sui tempi, se vogliamo, perché aveva raccolto le informazioni direttamente dei protagonisti di questa vicenda, facendo insomma una sorta di prototipo di romanzo storico. Io ho cercato poi di portare questa storia al cinema nella maniera che pensavo fosse più efficace, spero di esserci riuscito, ecco. Quindi in te tutto è partito dalla lettura di questo libro? Questa è una storia che in realtà in Gallura è piuttosto conosciuta, quindi io l'ho sentito vedendo il babbo gallurese e avendo frequentato quelle zone fin da bambino, la storia l'avevo già sentita e raccontata oralmente, poi quando da adulto ho letto il romanzo ho anche capito che la struttura narrativa poteva essere anche attuale, insomma aveva dei punti in comune con quello che ci raccontiamo tutt'oggi, ecco. Una storia ferocissima, come si legge nei titoli di coda, in pochi anni ha fatto circa 70 vittime. Sì, questi sono i dati che arrivano a noi, è una storia anche violenta sulla quale però ho cercato un po' di sospendere il giudizio morale perché è difficile per noi oggi capire cosa poteva essere una faida nel 1850 in Gallura, insomma. Come hai deciso di strutturarlo il film? Ho cercato di essere aderente da una parte ai fatti storici e dall'altra invece tenere viva la questione della leggenda, perché di fatto i fatti storici non esauriscono, diciamo, tutte le curiosità che si possono avere, soprattutto sul finale non esiste una versione univoca di come sia andata davvero a finire, quindi abbiamo cercato di tenere un piede nella storia, l'altro nella leggenda e aggiungere un po' di ingredienti che portassero un linguaggio, diciamo, più vicino ai nostri giorni, quindi c'è per esempio questo elemento western che credevo stasse bene con l'ambientazione, con la storia e che dal mio punto di vista dovrebbe cercare di portare il film a una lettura un po' più contemporanea, ecco. Ecco, su quali elementi hai voluto centrare l'attenzione di questa vicenda? I temi che mi interessano di più di questa storia sono quelli dell'emarginazione, del diverso, perché il protagonista Bastiano Tanso è vero che si trasforma in qualche maniera in un mostro, ma lo fa perché è vittima di una società, di un sistema di regole che lo costringevano a essere un emarginato. È vissuta con un ricordo ancora vivo in tutta la Gallura. È proprio viva come storia perché ci sono poi ancora molte famiglie che in qualche modo discendono dall'una, dall'altra, delle due famiglie che hanno dato origine a questa fazione, che erano Ivasa e Mamia, ma anche qualcuno che dice di essere parente proprio direttamente di Bastiano, della sua famiglia. Quindi di fatto lì è una storia viva. Per la scelta del cast ho visto anche che ci sono dei volti teatrali. Ho cercato di avere un cast totalmente sardo, fatta eccezione per tre attori, due dei quali dovevano essere per forza non sardi perché sono personaggi non sardi nel film, in particolare un prete e il capo dei dragoni i carabinieri dell'epoca. Il terzo personaggio non sarebbe proprio il protagonista, Andrea Arcangeli, bravissimo attore, ma l'ho cercato che non fosse sardo anche proprio per il fatto di aiutarlo a calarsi in questa atmosfera di straniero, di emarginato. Il fatto che Andrea non capisse per esempio il dialetto in cui il film è recitato, dal mio punto di vista poteva essere un aiuto per il protagonista a calarsi in quel personaggio. La lingua è molto diversa da quella dell'epoca? Sì, molto non ti so dire, però sicuramente ci sono delle differenze. Ci siamo fatti aiutare da un linguista esperto che ha una cattedra di gallurese all'Università di Sassari, quindi lo sforzo per avere un'aderenza storica anche sulla lingua è stato massimo, però è effettivamente molto difficile per chi non è abituato a parlare quel dialetto riuscire a riprodurre in maniera perfetta questi suoni che oggettivamente da un paese all'altro, Tempio e Agios per esempio sono due paesi che distano tra di loro 3 chilometri, però di fatto il modo di parlare è molto diverso, quindi riuscire davvero a rispettare in maniera esemplare queste differenze era difficile. Di fatto però quello che abbiamo usato è un gallurese, sicuramente cercando di arrivare anche alle variazioni tra agese e tempiese che lì sono molto sentite. Che tipo di distribuzione sarà? In Sardegna è uscito in 10 sale, la distribuzione è Fandango e adesso che arriveremo insomma in Italia continentale spero che ci accolgano in tanti. Per tutte le informazioni ci lasci dei riferimenti web? Il sito di Fandango, l'Instagram di Fandango, il mio stesso Instagram dovrebbero tenere aggiornati di quanti curiosi vogliono avvicinarsi al film. Ecco. Il film è Il Muto di Gallura, al cinema in tutta Italia da giovedì 31 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento alla regista Matteo Fresi. A presto! Grazie Federico, a presto! Con Andrea Segre, coautore e regista del documentario Po, al cinema da martedì 29 marzo 2022. Ben trovato! Buongiorno a tutti. Ci racconti di questo nuovo progetto? È un viaggio nel tempo e in un luogo che avevo attraversato tante volte, non ho mai frequentato davvero, che è il Polesine, lungo il Po, nel tempo perché racconta quello che è successo nel 1951, nel novembre del 51, quando l'argine sinistro del Po all'altezza di Occhiobello si è rotto, il Po era gonfio, gonfissimo di acqua e ha invaso interamente tutta l'area del Polesine tra Occhiobello, Rovigo e il mare, creando un lago grande come il lago di Ginevra, lungo decine di chilometri, largo decine di chilometri, e più di 150.000 persone, in gran parte contadini molto poveri, con famiglie molto numerose, piene di bambini, sono stati spostati, evacuati e distribuiti un po' in tutta Italia, diventando appunto profughi di quell'alluvione, i cosiddetti alluvionati. È una memoria appunto di 70 anni fa, che però ho accettato di raccontare perché me l'hanno proposto appunto l'Istituto Luce e Gian Antonio Stella, per due motivi. Uno, perché ci sono degli archivi a Luce molto belli, girati in pellicola dai cineoperatori, dai cinegiornali, perché nel 1951 non esisteva la televisione, quindi si mandava appunto i cineoperatori in pellicola con le cineprese in 35 mm, e potete immaginare la bellezza di immagini che raccontano queste terre sommersa dalle acque, le persone che cercano di muoversi inventandosi zattere improvvisate, intere città, paesi sommersi dalle acque e filmati in bianco e nero, in un contesto sì di dramma, ma per fortuna non di dramma gigantesco, nel senso che furono rapidissimi gli aiuti e probabilmente organizzati, anche si sapeva che c'era il rischio di questa alluvione, e molto poche le persone vittime di questa alluvione rispetto alla quantità. E quindi l'idea di riutilizzare questi archivi mi è piaciuta molto e di poter anche collaborare al lavoro di ricerca e di restauro che gli archivi del Luce stavano facendo di queste immagini, con la capacità da parte degli archivisti del Luce di trovare degli inediti dentro i loro stessi archivi e di restaurarli, di prepararli, quindi insomma è stato un bellissimo lavoro da questo punto di vista. Il secondo motivo perché mi piaceva l'idea di raccontare la storia di profughi italiani, di profughi veneti, in questa epoca di accoglienze o non accoglienze e di tanti profughi, di tante guerre, e di tante tragedie in cui noi sembriamo essere soltanto dalla parte di chi deve decidere se accogliere o meno, ricordarci che anche noi siamo stati, possiamo essere profughi, mi sembrava interessante. Come lo hai strutturato? Ma una struttura registica molto semplice di dialogo tra le interviste di testimoni che raccontano quelle memorie che sono per loro memorie di infanzia, perché i testimoni di oggi sopravvissuti hanno 75, 80, 85 anni, quindi all'epoca ne avevano 5, 10, 15. Quindi queste memorie di infanzia si intrecciano con gli archivi in un tentativo di dialogo tra archivi e interviste quasi mai didascalico, insomma sempre ispirato ad una un po' sublimazione tra i due registri, no? E lavorando grazie al montaggio di Chiara Russo e Luca Manex con le musiche di Sergio Marchesini, e lavorando sul dialogo anche tra i territori di oggi che ho filmato lì del Polesine, che è una delle zone più affascinanti geograficamente e fotograficamente, infatti moltissimo cinema è stato fatto lì, da Visconti a Mazzacurati, insomma, per citare due maestri, ma molti altri hanno filmato in quelle terre che hanno un fascino estetico particolare di campagna al confine con le acque, però di campagna ancora oggi molto campagna, insomma molto rurale, molto poco urbanizzata. E poi ho scoperto che insomma l'altra sera l'abbiamo presentata a Rovigo, perché c'è stata la prima, è stata a Rovigo, che è un po' il capoluogo del Polesine, e la sala ha riso tantissimo, perché il racconto dei testimoni è un racconto di chi ricorda quella tragedia con però il ritmo e lo sguardo dell'infanzia, no? E quindi nei loro aneddoti, nei loro ricordi c'è sempre un fondo di comicità, di ilarità che ha fatto ridere moltissimo la sala. Questo un po' lo speravo, però sentire, perché quando porti i film in sala per la prima volta, proprio era una sala numerosissima, c'erano più di 400 persone, una sala che ascoltava anche ovviamente quelle storie con aderenza, con partecipazione, storie raccontate in una lingua dialettale che lì si capisce meglio, anche se ovviamente il film è tutto sottotitolato. E questo incontro tra una memoria di quello che comunque è un dramma, insomma è un evento tragico, con invece una leggerezza, ilarità nel raccontare aneddoti di un mondo misero, difficile, di un mondo molto segnato, ma che però ha dentro la gioia di raccontare comunque, di ricordare un tempo che fu. E questo ha fatto ridere tantissimo la sala, questo mi ha fatto piacere. Adesso vediamo come andrà nelle altre sale in giro per l'Italia. Ecco, come sarà la circuitazione? È distribuito da Zalab in collaborazione con Il Luce e ci sono già una ventina di sale, io lo accompagno come sempre perché ritengo sempre molto importante e anche per me interessante ascoltare il pubblico. Ci sarà ovviamente una preponderanza di Nord-Est, Padova, Udine, Pordenone, perché la distribuzione è in collaborazione col Pordenone Dark Festival, dove ci sarà il film, dove accompagneremo il film in uno degli eventi del festival, e però ci sono anche altre città, c'è Milano, c'è Bologna, c'è Firenze, c'è Mantova, insomma ci sono le sale che raccontano, che danno spazio al cinema indipendente, al cinema documentario, che continuano a crescere in numero, ovviamente sono ancora poche, ma insomma, piano piano stanno crescendo. L'altra sera ad esempio a Rovigo era la proiezione in una sala riaperta in centro a Rovigo, dove non c'erano più sale cinematografiche, e a fianco al Duomo c'era questa monosala da 400 posti abbandonata a se stessa, dei ragazzi l'hanno rilevata e la stanno facendo ripartire anche attraverso il cinema documentario, non soltanto attraverso il cinema commerciale. Ci dai i riferimenti web per i dettagli? Sempre Zalab, zalab.org, c'è tutto. Il documentario Po al cinema da martedì 29 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento al coautore e regista Andrea Segre. A presto! Ciao Federico, ciao, a presto! Con Daniele Biacchessi, regista del documentario Le mani in pasta, in tour a partire dal 3 aprile 2022. Ben trovato! Ciao a tutti, ciao a te Federico. Ce lo racconti? Le mani in pasta è un libro di Carlo Barbieri del 2005 che poi ho ripubblicato nella collana Contastorie di Acabucca. Nel 2021 racconta il lungo percorso straordinario delle cooperative, non solo di Libera, ma delle tante cooperative che lavorano nei campi confiscati alle mafie, soprattutto nelle zone della Sicilia, poi dopo Puglia, Campania, Calabria, Basilicata. Mi piaceva questa idea di Carlo perché è stato un dirigente della COP ed è stato quello che in qualche modo aveva ai tempi coadiuvato le prime esperienze delle cooperative nate sui campi confiscati alle mafie. Il libro ha avuto un ottimo successo, è stato presentato nel 2021 e anche più recentemente, e contemporaneamente all'uscita del libro ho iniziato il percorso del film, mischiando stili differenti ma sull'onda della linea che ho iniziato tanti anni fa con Giovanni Anori, poi con i Carnefici, con l'Alta America di Budigato, con Una Generazione Scomparsa, con l'Italia Liberata, Il Sogno della Ragione, e quindi con stili un po' diversi dal solito classico docufilm. Innanzitutto le voci sono fuori campo, sono quelle mie, di Tiziana Di Masi e di Francesco Gerardi. Poi le musiche, che sono dei Gang, dei Modena City Rambles, di Gaetano Liguori, di Andrea Sigone, e anche alcuni brani miei di chitarra. Poi ci sono chiaramente le illustrazioni, ce ne sono di meno, di Giulio Peranzoni, illustrazioni in LDP. E poi avevo bisogno di far vedere che cosa sono questi luoghi, e quindi ci sono delle riprese molto molto molto belle e professionali dal lato con i droni. Ne sono poco docufilm e molto cinema, mischiando dentro tutti questi stili, oltre alle fotografie assolutamente inedite delle occupazioni delle terre, le esperienze di Placido Rizzotto, dei sindacalisti che poi sono stati uccisi, e anche dei video molto belli dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, assolutamente inedite, sempre sui campi occupati nell'immediato dopoguerra in varie parti della Sicilia. Mischiando dentro tutto questo con uno stile dunque di grande narrazione, parto sostanzialmente dall'esperienza di Placido Rizzotto, uno dei 131 sindacalisti uccisi dalle mafie, quindi un'esperienza sindacale e politica molto forte, molto importante, in parte dimenticata, e arrivo fino a questa ultima esperienza generazionale di persone che si sono messe insieme, prevalentemente contadini, e hanno cominciato a coltivare terreni che fino a qualche anno fa erano nelle salde mani dei più terribili, orribili boss di Cosa Nostra, della Camorra. E il fatto che uno dei simboli di questa rivoluzione che ha dentro in un vino che si chiama 100 passi, e io racconto la genesi di questo vino, di come nasce, dove nasce, quali sono i grappoli. Questo vino ha avuto un grandissimo successo anche in termini di vendite, di costruzione dei prodotti che provengono da questi luoghi, e sono prodotti di altissima qualità, sia il vino ma ormai anche il grano, la pasta, i taralli, le conserve. Si fa veramente di tutto in questi campi. E sono anche tanti posti di lavoro. Sicuramente posti di lavoro puliti, che nascono appunto dalle esperienze di queste cooperative, che dicevo non sono solamente le vecchie cooperative di Liberaterra, ma si sono allargate e sono diventate un consorzio Liberaterra Mediterraneo, a cui appartengono anche tanti contadini che hanno capito che bisogna fare squadra insieme per fare economia pulita, molto pulita, anzi linda. Io volevo raccontarla questa storia perché è una storia bella, importante, una storia che nasce da delle disgrazie, ma è memoria che guarda verso il futuro, parla di giovani che potevano tranquillamente starsene a casa e aspettare qualcosa che non sarebbe mai arrivato, cioè un lavoro pulito, e invece di fare party con i boss locali, che invece di lavoro ce l'hanno sempre, ma di lavoro di quel tipo, del ricatto, dell'usura, eccetera, invece è una prova di forza anche culturale, politica, umana, che guarda verso il futuro e dice sostanzialmente che si può fare, si può fare impresa pulita nel nostro paese, certo non è una cosa facile, in tutti questi luoghi sono presenti naturalmente cosche mafiose di vario tipo che indicano le linee guida di un'economia sporca. Trovare la quadra in quei posti non è stato facile, però io penso di averlo raccontato in questo film che viene presentato per la prima volta a Milano, al Cinema Anteo. Ti ricordo che, come nella mia tradizione, questo film è stato prodotto solamente grazie al contributo di persone attraverso il crowdfunding che trovate ancora per pochi giorni fino al 2 aprile su Produzioni dal Basso. Il film si chiama Le mani in pasta, le esperienze sui terreni confiscati alle mafie. 6.000 euro di richiesta, stiamo viaggiando intorno ai 20.000 euro ricevuti, sia in forma diretta che sulla piattaforma. Un mezzo record che mi fa un grande piacere perché si sono mobilitate associazioni, cittadini, cooperative, imprese di ogni tipo, imprese pulite. E questo fa capire che anche nel cinema si possono fare film di alta qualità tecnologica senza dover per forza spendere centinaia e centinaia di migliaia di euro e distribuirli anche secondo gli stessi canoni cinematografici. Certo, voglio dire, non abbiamo e non ho la Paramount e la Universal dietro, sono anche molto orgoglioso, ma nei luoghi dove loro oggi fanno difficoltà a portare il loro cinema, ecco, Le mani in pasta ci va tranquillamente. Domenica i posti sono quasi praticamente esauriti, è all'interno di un festival che si chiama Forum Casa Comune, ma non so, anche a Bareggio il 7 di aprile, il 10 a Sarzana, il 29 per le scuole a Pavia e così via, è un maggio incredibile, partire dal 19 di maggio tutte le sere sono via e arriverò anche a Roma l'11 di giugno, vicino a Roma il 29 di giugno al Festival della Città dei Narratori che ho organizzato a Montefiascone, 100 km da Roma, con tantissimi concerti, presentazioni di libri, reading, narrazioni. Insomma, si può fare, caro Federico, questo è il messaggio, se c'è un messaggio, eppure le enormi difficoltà dovute al Covid, insomma sappiamo, i cinema sono rimasti morti, sepolti, invece c'è ancora la possibilità di fare operazioni di qualità. Ci dai tutti i riferimenti web nel salutarci? produzionidalbasso.com, cercate Le mani in pasta, le esperienze sui terreni confiscati alle mafie, quello è il punto di riferimento e lo sarà anche dopo il 2 d'aprile, perché comunque lì trovate tutte le informazioni necessarie, come è nato il film, chi ha contribuito, cioè tutto molto trasparente, come giusto che sia. Poi naturalmente le mie pagine, Daniele Biacchesi, e poi una pagina che si chiama Le mani in pasta, una pagina Facebook, lì scriviamo tutto quello che è necessario, informazioni sulle date delle proiezioni, insomma è una rivederci su queste strade. Il documentario Le mani in pasta, il tour da domenica 3 aprile 2022, un saluto e un ringraziamento al regista Daniele Biacchetti. Alla prossima! Alla prossima a voi! Con Sergio Ponzio, uno dei curatori dell'ottava edizione dell'On the Road Film Festival a Roma, Cine de Tour, dal 26 marzo al 10 aprile 2022, ben trovato. Grazie Federico, grazie, ben ritrovati. Raccontiamo l'On the Road. È un festival indipendente che nasce al Cinema de Tour, però nasce con una prospettiva itinerante, quindi comunque abbiamo negli anni organizzato edizioni che si sono dipanate in varie situazioni romane, laziali e non, proprio perché è un festival consacrato al viaggio, a percorsi poco battuti. Un festival che è arrivato all'ottava edizione con grandi difficoltà, grandi sacrifici, è un festival fieramente autoprodotto,

saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Sergio Ponzio. Alla prossima! Grazie Federico, grazie a tutti voi, grazie. Con Tino Franco, regista del documentario Percepire l'invisibile, a Roma, alla Casa del Cinema, venerdì 1 aprile 2022. Ben trovato! Ciao Federico! Di cosa si tratta? Raccoglie un'esperienza di quasi 4 anni di lavoro dell'Associazione Culturale dei Blue Studios, che in questi ultimi anni ha fatto parecchi lavori con le scuole di formazione di giovani filmmaker. Abbiamo cominciato facendo quella maledetta cosa che si chiama formazione scuola-lavoro, che poi si è trasformata perché l'abbiamo anche reinterpretata noi, cercando di non solo dare delle indicazioni culturali, ma facendo proprio fare praticamente un lavoro sul campo ai ragazzi delle scuole. Per questo poi nelle attività ci siamo avvicinati anche a un istituto della ASL, il Dipartimento di Salute Mentale. In realtà sono loro che ci hanno cercato sapendo che facevamo questa attività culturale e abbiamo cominciato dal 2017 a collaborare a un tavolo delle associazioni di quartiere. Noi siamo in Prati e anni fa si fece un tavolo delle associazioni. Tutta questa esperienza in realtà poi a un certo punto è stata vanificata dal Covid, cioè dal problema del rischio contagio, e quindi dal 2020 praticamente ci siamo tutti congelati, non abbiamo potuto fare più attività di associazione perché si dava come indicazione il fatto che non ci si poteva proprio incontrare, cosa che per noi era fondamentale, cioè condividere l'esperienza di una proiezione o di un workshop o di un dibattito era totalmente illegale. E a questo punto ci siamo praticamente fermati, però eravamo andati molto avanti con questo gruppo di questo Dipartimento di Salute Mentale di via Antonino Di Giorgio, con il quale avevamo fatto un laboratorio di sceneggiatura che era arrivato alla definizione proprio di un cortometraggio. Quindi abbiamo mancato l'obiettivo, cioè quello di realizzare un piccolo audiovisivo con gli utenti del dipartimento del centro, e questo era un po' frustrante. In più il fatto dell'isolamento, abbiamo cercato di forzare un po' la mano e una volta che abbiamo fatto un primo vaccino tutti quanti, tutti tamponati, abbiamo dato proprio vita a quella che era un'idea che tra l'altro era venuta dagli utenti. Gli utenti avevano suggerito un'idea che non era poi il racconto della loro condizione, ma allora avevano notato una cosa generale che poi è l'invisibilità. Nel senso che loro invece di raccontare il loro disagio, o meglio hanno metaforizzato il loro disagio, però l'hanno allargato a tutta una fascia di popolazione, cioè a tutti quelli che non hanno lavoro, che sono precari, che vivono nell'indigenza, agli anziani, cioè hanno tentato di raccontare, secondo me ci sono riusciti, anche con una certa leggerezza, con una sorta di messa in scena comica, la loro condizione, che poi è anche un po' la nostra, diciamo, la verità. Come è strutturato il lavoro? È stato un work in progress veramente, cioè nel senso che noi abbiamo cominciato, come ti dicevo, già dal 2017 a frequentare questo gruppo. Questo gruppo in realtà era già molto preparato, acculturato, non so come dire, sono dei cinefili, erano abituati ad andare al cinema, poi quando il cinema si sono chiusi non ci sono potuti andare, allora comunque si attrezzavano con i DVD e il percorso terapeutico era vedere un qualunque film. Molti film erano film di cassetta, di grande attrattiva spettacolare, eccetera, e fare una riflessione e trovare anche il piacere del prima e del dopo la visione del film, cioè il fatto di stare insieme era la cosa importante, il fatto di riunirsi intorno alle immagini, cosa che poi appartiene anche a me, insomma, alle persone che fanno parte dell'associazione, perché noi abbiamo sempre cercato di promuovere l'aspetto del piacere della visione, insomma. E quindi il fatto di incontrarli è stato molto stimolante perché abbiamo visto dei veri appassionati. Dopodiché hanno seguito un corso che noi facciamo normalmente, tenuto da Matteo Martone, che è un interno della Fiction della RAI, che si dedica a questi percorsi culturali con l'associazione del Blue Studio. E quindi abbiamo portato avanti proprio una scrittura, una sceneggiatura. Avevamo questa sceneggiatura pronta, però appunto è cominciato la pandemia e quindi ci siamo dovuti bloccare. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? C'è una cartella stampa che abbiamo fatto con grande fatica. Un vero sito non c'è ancora, ti dico. Però abbiamo una prima, perché poi l'abbiamo girato appunto, l'abbiamo post-prodotto. Tra l'altro è un prodotto proprio professionale, perché è un lavoro di equipe, c'è stato molto lavoro anche di 3D, cioè abbiamo fatto una cosa di livello alto, insomma. E poi tra l'altro abbiamo le musiche originali, abbiamo fatto un grande lavoro. Per cui la sceneggiatura che loro hanno prodotto praticamente mi è stata consegnata e io ho agito come un professionista, come sono. Quindi abbiamo tentato di realizzare le loro idee e non erano facili, perché la loro idea vedeva il protagonista che, a seconda di quello che gli succedeva, ovvero se trovava lavoro o non trovava lavoro, diventava visibile agli altri oppure invisibile. Ed era questo il tema che loro volevano portare, cioè il fatto che loro si sentono invisibili perché nella maggior parte dei casi non lavorano. Tra l'altro la loro condizione di disabilità li porta a essere visti anche con una certa paura, perché tra tutte le disabilità quella mentale è quella che fa più paura. Però ecco, al Casa del Cinema venerdì alle 18, spero che a loro gli vada di raccontare qualcosa di questa esperienza, che non è un'esperienza raccontata in maniera drammatica, insisto, è anche leggera come racconto, voleva anche far sorridere e forse ci siamo riusciti, non lo so, insomma, spero che questa prima visione, alla quale poi seguiranno altre, permetta prima di tutto di squarciare un po' un velo, perché di solito appunto chi incontra queste persone si gira dall'altra parte, ecco. Il documentario Percepire l'invisibile a Roma, alla Casa del Cinema, venerdì 1 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Tino Franco. A presto! Grazie a te Federico, grazie. Con Giorgio Gosetti della Casa del Cinema per presentare il film Lunana, il villaggio alla fine del mondo, al cinema da giovedì 31 marzo 2022. Ben trovato! Buongiorno a voi! Che storia è questa? Per parlare di Lunana bisogna fare l'elogio al cinema semplice, il che è una cosa complicata, perché uno comincia a pensare che va al cinema perché vuole vedere qualche cosa di sorprendente, di diverso. Ora, Lunana è un film assolutamente sorprendente, assolutamente diverso, ma di una semplicità come l'acqua di sorgente, cioè uno lo vede e dice ma questo è un film che lo potrei fare anch'io, non c'è bisogno di essere un regista come Christopher Nolan per fare del bel cinema. Ora, cominciate a dire che è un film del Bhutan. Bhutan è una regione indipendente, ma insomma sta, diciamo, nell'area culturale cinese, anche se vi si parla una lingua tutta diversa, anche se il regista si stenta a pronunciarlo perché è Pao Choining Dorje. Ed è un film con una storia lunghissima. La storia raccontata è semplice, la storia di un giovane maestro che non vorrebbe fare il maestro, che viene mandato per punizione in un paesino veramente alla fine del mondo, in alto a 5.000 metri, dove fa un freddo tremendo. Lui in realtà vorrebbe andarsene, smettere di fare il maestro, vorrebbe andare a fare il cantante in Australia. In realtà scoprirà una vocazione diversa e scoprirà un modo di vivere completamente diverso, un modo di essere persone completamente diverso. Quindi da questo punto di vista è una bella storia di formazione, è una storia con una marea di ragazzini straordinari che non hanno mai visto, non solo come si fa, ma neanche come si vede un film. Non c'è un cinema a Lunana. E però invece sono degli attori formidabili, come formidabile è il protagonista, che infatti ha preso un sacco di premi anche come miglior attore. Lui pure non è un attore professionista, però è straordinario. Questa è l'apparenza del film. Poi c'è la sostanza. Tu Federico l'hai visto? Sì. Ciao, ti è piaciuto? Sì. Ecco, considerate che è un film che piace da tantissimo tempo e questa è un'altra storia molto bella in fondo, perché questo film arriva nelle sale italiane, se Dio vuole, grazie alla distribuzione benemerita di Ubu, adesso. In realtà viaggia nel mondo dalla fine del 2019, inizio 2020, ed è una cosa buffa perché lo scoprono al Festival di Londra, poi riceve un premio in America al Festival di Palm Springs, poi gira per una serie di festival anche a Locarno, è stato più di recente premiato, ha avuto la sua anteprima italiana al Lessinia Film Festival, che è un piccolo festival straordinario di montagna, ma che non racconta soltanto storie di montagna, ed è finito nella cinquina degli Oscar. Se l'è battuta con il film di Sorrentino, ha perso contro il film giapponese, ma insomma è una cosa straordinaria, la prima volta che il Bhutan bussava alla porta dell'Oscar, non dico che arrivava proprio nell'anticamera come invece è stato nel caso di Lunana, dopo che era stato respinto dagli Oscar nell'edizione precedente e invece è riuscito a rientrarci nella quella dopo. Quindi è una storia meravigliosa perché è una storia di tenacia anche, racconta una storia di tenacia ed è una storia di tenacia, di dedizione, di voglia, di passione per il cinema come racconto umano, anche dal punto di vista delle vicissitudini produttive e realizzative del suo regista. È abbastanza un caso unico e quindi meriterebbe di essere visto al cinema non solo perché diventa immediatamente partecipato, cioè tu entri in sala e dopo 20 minuti vuoi soltanto andare avanti con il protagonista, ma perché è anche una testimonianza di coraggio in quello che il cinema può dare davvero in un'epoca in cui noi pensiamo che il cinema sia tutto di supereroi e tutto di Marvel Studios, che è un altro modo bellissimo di fare il cinema, mica è brutto, al contrario, però o meraviglia esistono anche i film come Lunana, o meraviglia esiste un piccolo distributore italiano che lo segue, lo corteggia, lo accompagna e adesso lo porta in sala. Il film Lunana, Il villaggio alla fine del mondo, al cinema da giovedì 31 marzo 2022. Saluto e un ringraziamento a Giorgio Gosetti della Casa del Cinema. A non presto. Lasciatevelo scappare, mi raccomando. Con la critica cinematografica Anna Maria Pasetti per presentare il film Un altro mondo di Stéphane Brisé al cinema da venerdì 1 aprile 2022. Ben trovata! Ben trovato Federico e a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua. Ce ne parli? Allora, è un cinema importante quello del francese Stéphane Brisé che con Un altro mondo, quindi Un altro mondo, chiude una trilogia che noi abbiamo denominato la trilogia del lavoro, che era iniziato con La loi du marché, la legge del mercato, era continuata con En guerre, quindi In guerra, e qui porta a compimento con Un altro mondo. Stéphane Brisé, cineasta attento alle tematiche sociali, politiche, ma soprattutto un grande raccontatore di storie del reale che però riesce ad elevare grazie alla forza drammaturgica del cinema. Ritorna a lavorare con Vincent Landon, attore strepitoso non solo nel cinema francese ma nel cinema contemporaneo, che in tutti e tre i film di questa trilogia occupa il punto di vista drammaturgicamente strategico per raccontare un po' quelle che sono le ferite del capitalismo sull'essere umano contemporaneo in primis, quindi sull'intimo, le ferite intime portate all'universale, no? Mentre nella legge del mercato era un impiegato di un supermercato che però osservava praticamente con una videocamera quello che succedeva all'interno del supermercato, in una guerra In guerre riveste il ruolo di un sindacalista che combatte proprio le ingiustizie, infatti è incredibile, c'è tutto girato dentro a una lotta sindacale. In Un altro mondo è dall'altra parte della barricata, se vogliamo, cioè è il responsabile delle risorse umane di un'azienda di elettrodomestici in Francia che deve tagliare, licenziare, fare un piano di licenziamento su ampia scala, e questo mette in discussione i suoi valori, mette in discussione tutta una serie di meccanismi della catena, diciamo così, virtuosa, no? Del lavoro, del vivere anche a livello privato, e pone in essere la grande questione di ciò che va fatto quando ci si trova in questa situazione, no? Se agire e tagliare questa catena, diciamo, di sangue oppure adeguarsi. Ecco, chiaramente noi non racconteremo quello che è la storia, perché sennò le persone non hanno il gusto di scoprirla, e tuttavia quello che posso dire è che è l'ennesima prova e l'ennesima capacità di Brisé, appunto, di partire da un discorso così, se vogliamo, un racconto vecchio come l'uomo, no? Quindi la storia delle ineguaglianze, l'uomo comune in lotta verso qualcosa di più grande di sé, il grande dramma del potere, insomma, sono tutti temi universali di cui arte, letteratura, eccetera, hanno sempre affrontato, e tuttavia riesce sempre a renderli nuovi, a renderli interessanti, a renderli assolutamente attraenti allo sguardo contemporaneo, pur stando sull'universale. Non so se tu abbia visto il film. Sì, l'ho anche apprezzato molto. Ecco, immagino, certo. Mi è piaciuto molto lo spessore del personaggio, che tra questa vita privata problematica e dolorosa e il mondo del lavoro, dove lui comunque è rispettato dai lavoratori e lavoratrici, perché comunque non è uno squalo, certo, però si trova stretto, stritolato in un meccanismo appunto tra due controparti. Sì, quindi insomma un film da vedere che consigliamo, in cui la bellezza secondo me è che il tema non travalica la forma, cioè la forma si adatta al tema, per cui non è un film come nessun film di Brisé a tema, ma è un grande cinema in cui il tema viene assolutamente declinato funzionalmente al linguaggio cinematografico. Il film Un altro mondo di Stéphane Brisé al cinema da venerdì 1 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento alla critica cinematografica Anna Maria Pasetti. A presto! A presto, grazie e alla prossima. Con il critico cinematografico Federico Pontigia per presentare il film Una vita in fuga di Sean Penn al cinema da giovedì 31 marzo 2022. Ben trovato. Ben trovati. Parliamo di un film per cui vi do due notizie. Prima quella buona, che non è questo film, è Una vita in fuga, Flag Day originale, il precedente tremendissimo The Last Face, che tra l'altro è un film molto interessante perché ha una storia che riguarda Cannes. Fu talmente fischiato, talmente distrutto dalla critica, che il Festival francese nel 2016 si vide poi costretto a mettere un embargo per le recensioni e commenti social fino alla fine della proiezione di gala. Questa è la buona notizia, poi però c'è la cattiva, che comunque non è questo Una vita in fuga un grande film. Perché, per farla breve, poi spiego meglio, è un film in cui Sean Penn travasa a tutto schermo il proprio narcisismo, peraltro allargandolo con formato famiglia. Allora, il film è basato su una vera storia, quella di John Vogel, ovvero un rapinatore falsario tra i più grandi che l'America abbia mai conosciuto. Questo, diciamolo così, memoir, per conto terzo, ovvero scritto dalla figlia Jennifer, aveva appunto informato il libro Flim Flam Man, e Flag Day vi prende a piene mani. Allora, sullo schermo c'è il rapporto ambivalente tra la stessa Jennifer, e qua c'è il primo ricasco biografico, perché a interpretare Jennifer c'è Dylan Penn, la figlia che Sean ha avuto da Robin Wright, e il padre invece è egli stesso a interpretarlo, cosa che nei suoi film precedenti da regista non era mai accaduta. Il personaggio, come dicono gli americani, è larger than life ed è la quintessenza del sogno americano, seppur deviato e seppur declinato pro domo sua. A rincarare poi questo formato famiglia di cui vi dicevo, c'è anche l'altro figlio, Hopper Jack Penn, che interpreta quello di Vogel, appunto, Nick. Quindi due figli, un padre, i riverberi tra personaggi e persone, tra finzione e realtà, quindi sono assolutamente evidenti. Il problema è appunto di questo narcisismo, perché in questa carrellata, in questa cavalcata tra case, libri, auto, viaggi e fogli di giornale, per citare una canzone di Tiziano Ferro abbastanza nota, c'è sempre questo problema che noi non vediamo mai Vogel alla fine, ma vediamo sempre Penn. Non vediamo mai la figlia Jennifer, ma vediamo la figlia di Penn, Dylan. Alla fine tutto questo gioco a specchi risulta abbastanza stucchevole. nel senso che è come se alla base del progetto non ci fosse la volontà di portare sullo schermo questo personaggio, che è anche interessante, ma di portare sullo schermo la persona a Penn. Quindi se ci sono delle sequenze davvero riuscite, anche fascinose, anche ben girate, no? Per esempio bellissima è la scena della finta telefonata di John al concessionario. Il film però è lungo, ripetitivo, e poi in questo ritratto del papà tanto amato, nonostante sia maledetto e pazzerello, davvero il narcisismo la fa da padrone. A Cannes non ha sortito i fischi del precedente The Last Face, però nemmeno è stato accolto bene. Arriva adesso sugli schermi in un momento in cui Sean Penn è alla ribalta, perché era in Ucraina per fare un documentario, ha detto addirittura ai recenti Oscar che se non avessero invitato Zelensky a parlare avrebbe liquefatto le statuette, insomma in tutte altre faccende affaccendato. A noi non resta purtroppo che vedere sullo schermo questo Una vita in fuga. C'è di meglio e riguarda sia le nostre vite che soprattutto quella di Sean Penn. Il film Una vita in fuga di Sean Penn al cinema da giovedì 31 marzo 2022. Un saluto e ringraziamento al critico cinematografico Federico Pontigia. Alla Grazie prossima. A voi. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.